Ti è mai capitato di ricevere un complimento e subito sprofondare in un profondo imbarazzo, non sapere che cosa rispondere, dove guardare, come mettere le mani, e il cervello ti va in confusione, non sai che cosa dire? Oddio, mi ha fatto un complimento, sarà sincero oppure avrà un secondo fine? Ora che cosa gli rispondo? Se gli dico sì, magari pensa che me la tiro. Se gli dico no, però magari penserà che non sono gentile. Ok, ferma tutto. Intanto una domanda. Se tu fai un complimento sincero a una persona, che cosa ti aspetti? Saresti contento se cominciasse a dirti «ma no, ti sei sbagliato» e tirasse fuori mille scuse? Guarda, mi ha proprio colpito quel discorso che hai fatto ieri sulle particelle subatomiche. Ah, sì, ma sai, avevo appena finito di leggere quel libro di Stephen Hawking. Ehi, ma lo sai che questa maglietta ti sta proprio bene? Sì, ma sai, l'ho trovata in sconto su una bancarella del mercato, niente di che. Ma insomma, ma a me che cosa interessa dove l'hai presa? Ti sta bene e basta, mi faceva piacere dirtelo. Cosa c'è da aggiungere di altro? Ti sei mai chiesto perché facciamo così fatica a ricevere un complimento? Non sarà che tutto sommato crediamo di non meritarcelo? Che non abbiamo abbastanza autostima per accoglierlo con serenità? O magari potrebbe anche essere perché il complimento ci mette in difficoltà, perché ci mette in contatto con una parte profonda di noi, bella, positiva, della quale a volte abbiamo paura perché ci rendiamo conto che magari metterebbe in moto altre cose che preferiamo tenere da parte. Ok, forse sto un pochino allargando il discorso, allora mi viene in mente però quello che ci disse una volta il nostro rettore del seminario, Don Borzone. Voi tra poco andrete in parrocchia e comincerete a predicare e potrà succedere che verrà qualche persona che vi dirà: guarda Don, sai che oggi hai fatto proprio una bella predica? In quel caso voi che cosa dovrete fare? Dovrete dimostrare modestia, magari dicendo ma no, ma guarda, ma sai? No, nulla di tutto questo. Fate soltanto una cosa: un bel sorriso e dite grazie. Basta questo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Perché se tu cominci a dire bla bla bla e no, ma perché così cos'ha? E poi magari metti in imbarazzo l'altra persona. Che senso ha schernirsi, fare finta di essere modesti? Insomma, un bel complimento è un dono che è soltanto da accettare. Innanzitutto non dobbiamo rifiutare il complimento, dobbiamo accettarlo con semplicità, con gratitudine, con un sorriso, con un grazie sincero. Rifiutare un complimento in un certo senso è sminuire la persona che te l'ha fatto, mentre accettarlo è già ricambiare quello che lui ha fatto per te. Perché se tu accetti un complimento, significa che tu ti fidi dell'altra persona, ti fidi del suo giudizio, del suo parere, e significa che credi che quello che sta dicendo sia vero e quindi in un certo senso comunque stai dando valore non soltanto a lei ma anche alla sua persona. Quindi quali frasi potremmo utilizzare per accettarlo? Beh, ce ne sono molte. Ti ringrazio, è molto gentile da parte tua. Grazie, lo apprezzo veramente molto. Grazie, questo vestito piace molto anche a me e sono contento che piaccia anche a te. Grazie, ciò che mi hai detto significa molto per me. Oppure puoi approfondire ancora di più il discorso con frasi di questo tipo. Grazie, mi fa piacere che tu abbia notato questo particolare perché per me è una cosa molto importante. Grazie, l'ho scelto con cura e sono proprio felice che ti piaccia. O ancora puoi usare il complimento come un punto di partenza per un dialogo che va ad approfondirsi, ad allargarsi. Qualcosa del tipo: grazie, ma sai che questa idea l'ho presa un pochino da questo libro, è bellissimo, lo conosci? Quando poi riceviamo un complimento, a volte, pensaci, ci viene distinto ricambiarlo in qualche modo, dire subito qualcosa anche noi a quell'altra persona, rischiando però, dimmi un po' che non è vero, di fare un complimento a nostra volta magari un po' forzato. Allora forse in quei casi è meglio lasciar perdere, prenderci il complimento e poi magari successivamente, in un secondo momento, ricambiarlo con qualcosa di diverso. Se infine pensi che il merito non sia tutto tuo, ma che tu debba condividerlo anche con qualcun altro, beh, allora è molto semplice, dillo. Ad esempio: grazie perché ho lavorato molto su questo progetto e ho avuto la fortuna di avere accanto altre persone con le quali ho lavorato molto bene. O ancora, grazie, e grazie anche a te, perché se siamo riusciti ad arrivare a questo risultato è anche grazie al tuo supporto. Bene, come avrai capito, a me i complimenti piacciono, mi piace farli e anche riceverli, non li rifiuto mai. Per cui, se questo video ti è piaciuto, me lo puoi anche dire che è il più bel video che tu abbia mai visto da quando hai scoperto YouTube. E allora però in quel caso ti direi anche grazie, perché ci ho creduto, ci ho lavorato duro e sarei proprio felice se tu volessi condividerlo con tutti i tuoi amici.